Anche oggi apro gli occhi e mi sento bene, pure se le nuvole le vedo nere, che ti servo il fuoco, il cuore a cherosene, che mi sento più ricco di un petroliere, anche se la notte c'ho le ginocchiere, striscio a terra perché mi conviene, dopo verso il vino nel bicchiere, è il destino che mi chiede di spezzare il filo che mi tiene libero. Notte prendimi con te, portami lontano dove non si sente più il richiamo, mentre tengo lei per mano e siamo addormentati sul divano. Neurastenico, faccio un bagno nell'arsenico, che la merda, me la merito, scrivo una canzone e gliela dedico. E amarmi è magnifico, ma mi sacrifico, con gli occhi rossi, senza l'antistaminico, e siamo tanti qua in bilico, matti coi contratti, poi martiri contratti, pensi che ne usciamo compatti, fra no, vado a pezzi, ma questa è la vita che scelsi, al posto mio cosa faresti, non siamo poi così diversi, io e te, che non ho la forza nei riflessi, e come fare a restare noi stessi qua, io non lo so, non lo so, non lo so, seguo l'onda, dove l'acqua è più profonda, dove anche il più bravo affonda, dove indietro non si torna più, prendo forma. Tanto c'ho il cuore di gomma, puoi passarci sopra con un carro armato, dargli un bacio, lui non si ricorda. E io ti amo, hai capito, ti amo, anche se tu fai finta che è impossibile, io non ho limite, spingo a dire che sei mia fino all'inverosimile. Caso limite, insicurezza, sono il capostipite, è una magia, e piuttosto che vederti andare via, io mi strappo l'iride. Blocchi cellulare così non mi senti, ma tanto lo so che mi prezzi o no. Non restiamo indifferenti, se no poi va a finire che vado a pezzi, ma questa è la vita che scelsi, al posto mio cosa faresti, non siamo poi così diversi, io e te, che non ho